Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis e un benvenuto a Federico Pedrocchi. Buonasera Federico. Ciao Maurizio. Allora Federico, stasera ultima di tre puntate che abbiamo dedicato a comprendere meglio il fenomeno Big Data, grazie anche all'aiuto di Victor Meyer Schönberger, che è uno dei massimi esperti mondiali di Big Data, che tu hai incontrato al Future Forum di Udine. Allora, nelle puntate di ieri e l'altro ieri abbiamo visto come oggi sia possibile trattare masse immense di dati eterogenei, apparentemente del tutto scollegati e con dentro tanto di situazioni paradossali, se non anche assurde. Ma da questo caos, grazie a degli algoritmi intelligenti, si possono ricavare, abbiamo visto, informazioni preziose e soprattutto correlazioni del tutto inattese fra fenomeni che appunto appaiono non c'entrare nulla l'uno con l'altro. Per esempio, diventa possibile prevedere un'epidemia di influenza dal numero di volte in cui certe parole ricorrono sui social network, anche parole che magari apparentemente non c'entrano nulla con le epidemie di influenza. Insomma, questi big data, se usati con sapienza, diventano una chiave molto potente di interpretazione e anche nuova di interpretazione della realtà. Però, come ogni strumento, Federico, anche i big data qualche rischio se lo portano dietro, e tu ne hai parlato con Schönberger. Lui dedica due capitoli del suo libro Big Data a questi problemi e poi ne ha anche parlato a Udine. Beh, sentiamo le prime sue parole. Big data is a very powerful tool, and like every powerful tool, it can be abused, and it has certain qualities that make it particularly susceptible to abuse. Ecco, lui dice, tutti i grandi nuovi strumenti hanno sempre un lato oscuro. Una delle grandi potenze di questo sistema qual è? È quella di poter generare certamente delle previsioni sul futuro. Allora, quando prevediamo il futuro, possiamo essere da una parte contenti, dall'altra attenzione. Per esempio, se riusciamo a prevedere quello che può essere il futuro della salute di una persona, se ne è parlato più volte, beh, insomma, certo, lì c'è un bel problema. Come facciamo a gestire il fatto che dobbiamo dire a uno, guardi che lei ha una probabilità... Certi fattori di rischio. Come facciamo a gestire il fatto che le assicurazioni, per esempio, non se ne approfittino? Sono cose complicate, no? Sono assolutamente complesse. Oppure un altro esempio che lui fa, mettiamo dentro tutti i dati che stanno intorno a un delitto, no? Il delitto di Perugia, mettiamo dentro tutti i dati possibili che ci sono. A quel punto abbiamo uno strumento che, magari perché abbiamo verificato in altri momenti, è molto potente nel dirmi come sono andate le cose, e lì abbiamo una indicazione di un colpevole. Attenzione, abbiamo una macchina che decide che cosa deve decidere la giustizia. Certamente così non è accettabile. No, io gli ho anche chiesto, e possiamo sentirlo, ma forse in alcuni casi non sarebbe meglio non usarlo, questo strumento, e lui è d'accordo. Sometimes it might be better to avoid big data use or use of big data or prohibit it even outright when, for example, human life is in danger. And sometimes big data should only be used with certain safeguards in place. Ecco, da queste poche parole che lui dice qua all'inizio si capisce perfettamente che è d'accordo su questa cosa, cioè bisogna usarli con estrema cautela e in alcuni casi è meglio lasciarli perdere. Sai che cosa mi fa venire in mente questa storia che mi stai raccontando? Minority Report, sì, no? Che molti, insomma, avranno visto. Cioè, tu a un certo punto raccogli tutta una serie di informazioni. Immaginiamo di avere un sistema. Tra l'altro, sistemi simili stanno effettivamente nascendo, si stanno sviluppando, lo sappiamo anche abbastanza bene, per il controllo della sicurezza, per esempio, in città. Raccogliamo una serie di informazioni che ci dicono, guardate che lì c'è la possibilità che si verifichi un delitto. Cosa si fa? Si interviene, non si interviene, si accetta una situazione di questo genere? Sì, può sembrare banale, cioè dire, è comodo, siamo sicuri, può venire fuori un gran caos. Ecco, ma qual è il punto? Quindi inserire un anello umano nella catena di decisioni. Pochi giorni fa ne parlavamo proprio in caso di, non so, scoppia un incendio in un grattacielo. Ci sono tutta una serie di cose che bisognerebbe fare. 99 volte su 100 è giusto farle, ma c'è quella volta lì in cui bisogna fare una cosa diversa. Le macchine non ce la fanno probabilmente, e allora è importante mettere dentro un essere umano che a un certo punto prenda la decisione finale. È un po' questo il punto? Infatti Schönberger dice, o è meglio evitare oppure non lasciarli automatici. Ci danno informazioni, ma chi deve scegliere e portare avanti la scelta deve essere un umano che governa il sistema. E lui dice, è molto importante che questo dibattito lo facciamo adesso. Certo, perché sennò dopo ci troviamo in mezzo alla palude, lo strumento va da solo e buonanotte. Ci fermiamo qui, grazie Federico. A voi tutti appuntamento a lunedì.